se girava la macchina e ho trovato la tua chiamata, però non ci avevo credito per chiamarti. No, ti ho chiamato perché capito che stai cercando lineare, io so che tu stai prendendo qualcosa e te lo volevo dire. Che sta cercando lineare da 300-600 watt. Io da 300 non ne ho, c'ho quello là da 600. E quello da 600 valvolare? È caparoglio, però ci vogliono le due valvole. Ah, basta dirglielo, Massimiliano. Basta dirglielo. Ma quella storia là non la me la dai, sì o no? Beh, no, ci mettiamo d'accordo già. Al limite sabato ne parliamo, quando ci vediamo. Intanto ce l'ho fermo con l'apparecchio, meglio che lo dia a te che lasciarlo fermo lì. Funziona, è tutto quanto funzionante, però è fermo perché non lo sto usando. Ma non ne voglio parlare qua, capito? Ne parliamo al limite sabato, così ci vediamo di persona e ci mettiamo d'accordo. Ah, magari, va bene, non c'è problema. Non c'è problema. Ma quello già va, sì, va tranquillo, Massimiliano. Allora non va. È ancora lineare dentro? Ma no, l'ha tolto. L'ha tolto. Ma volendo io te lo do un altro, capito? Ne ho un altro da 80 watt. E vedo un po' cosa si può fare. No, non lo lascio normale. Al limite se si può aumentare l'IC appena appena, ma poi già lo vedo io che microfono mette lì. Gava gava, e io ci mettiamo d'accordo. A tu ti volevo chiedere una cosa, scusa un attimo, già. A tu passa un attimino al 25. Per me è rapito, è verso quell'ora lì. Già, passeremo lì alle 3:30. Così vi porto il vuoto, perché cazzo sono stata a bomba, è un casino qua. Scappa, dai, non c'è problema. Il vuoto te lo porto? Sì, portalo. Ascolta, cosa avviene quella da 10? No, ne parliamo qui, dai. Scappa, Roger, ora. Ok, là. Passiamo al 21 nuovo, aspettando a tornare, mi fate anche cantare una bella canzone. Sembra così ovvio. No, le ho chiesto solo una cortesia che mi devono fare, basta, c'è problema. Niente, già, se lo vuole quel 2001 glielo do, se lo sistema e poi vediamo un po'. No, glielo ho detto, lui mi ha detto che vuole valvolare, ho detto che stai vedendo anche 747, mi dice no, non lo voglio valvolare, a 600 mi va benissimo. Capparò, giuro. Io l'altro giorno ne stavo parlando con lui, era sistemare, perché ti ricordi che mi sembra già l'hai visto anche tu. Se lo sistema, poi vediamo un po', là, dove lo gioco, no, non lo so, mi dà un microfono, adesso. Va bene, va. Ma è funzionante, sicuri, Massimiliano, l'hai provato? Nulla, non l'ho provato. E nel Vaivole è molto apposta, c'era un compagno di scuola che le chiamava Vaivole. Allora, le valvole ha cercato lui e anche Pierpaolo ha cercato in questo sito. 6 valvole EL519 costano 110 euro, una cosa del genere. Però se lui lo dice a Corio, a Luigi, Giancarlo ce li ha, mi sembra che le vuole dire 20 euro l'una. Conviene più comprare quelle in serie, e poi quando partono ce li ha. Infatti le conviene comprarsi più il pacco, quello da 6, così 4 gliele monta nuove e 2 ce li ha sempre di scorta, capito? Ti ripeto, vuole sistemato, perché cazzo è... se tu lo vedi pare un ferroviccio, però va. Ah, già l'ho visto, quello che mi hai fatto vedere quella volta. Quello lì. Vabbè, non lo so perché lui mi ha detto la roba lucida, venda nuova, perché se c'ha quei microfoni interno al più 2, se li vedi ma si vede il fondo, lucido, ma cazzo sembra lo c'è un negozio. Già, se fosse stato il mio sarebbe stato nuovo, però a me me l'hanno regalato, già l'hai visto come... cioè lui il tempo già ne ha, se si vuole mettere l'impegno a sistemarlo, quello già va. Quello, se li mette le quattro valvole nuove, dovrebbe dare intorno ai 680 watt in AM. Yeah, va bene. A voi le va bene. Vediamo. Vedi, Mosu. Pagaba. Casino, cazzo. Mi è passato questo raffreddore, questa febbre, cioè questo alito, mamma mia. Ho smesso di fumare. Avvio, come promesso hai smesso? Ho detto, oggi mia figlia fa 8 mesi, un giorno mia figlia fa 8 mesi e smetto di fumare. E ancora, sto lavorando di brutto, però non la tocco. Ma sabato non ce la fa, e se vedi da lui non ce la fa. No, vai tranquillo, se metto un impegno ci riesco. Se vedi, tu lo sai come lui, io quando avevo smesso di fumare, poi fumava, te veniva pure anche da bere una, ma non vorrei che lei. Mi veniva raga e non si mi dava una sigaretta, ma no, dovevo essere più forte io, ma ve la chiedevo perché dovevo resistere, eppure più di una volta ne ho fatto questa tentazione, passavo da 30 tabacchi e veniva pure a comprarle e passavo dritto, poi passavo dall'altro, mi diventavo il tabacchino, è una cosa micidiale, è un po' dura, anche la dieta è molto dura da fare, così come le sigarette la dieta. Lo so già, però se non tenete l'impegno non ci riuscirai mai. Io l'altra volta sono stato un anno e mezzo senza toccarne una e ti dico che la prima settimana è stata durissima, perché giustamente si è abituato a fumare, io ho fumato all'età di 13 anni. È dura, smettere è dura, però se non ti metti l'impegno non ci riuscirai mai. Io ci provo già, se poi non ci riesco, pazienza. No, quello è giusto, sì. Anzi, ti auguro che ce la faccia, perché è una cosa, se vinci quello fai 13, perché il fisico praticamente ti senti un altro. Io non avevo più catarro, non avevo più tosse, non avevo più un cacchio. Quando non fumavo stavo benissimo, respiravo benissimo e tutto. E invece con questo cacchio di sigaretta, sempre con questo catarro, mamma mia. E tosse, ti si asciuga la gola di notte, ti metti a tossire, non so se ti succede, a te non mi succede. Insomma, sono tutte cose, a parte quelle cose piccole, anche le grosse, arterie, infarti, tutte queste storie, belle storie qua, si sa, no? Cosa provoca. Se uno riesce, se riesce a smettere, fa un 13. Bianco per me, vai, ce la risentiamo stasera, vai. Ciao Anto, buon lavoro. Papà, ciao Anto, buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Già lo so io, la notte addirittura, mi sento i gattini, cazzo, dentro, catarro, a manetta, tosse, come dicevi tu, è un macello. Vabbè, non è che fumo tanto, io un pacchetto al giorno, però voglio proprio smettere del tutto. Se ci riesco, voglio provarci. A parte quello, anche la tasca, io mi ricordo che quando non fumavo avevo sempre le tasche piene di soldi, perché risparmio un casino, e le sigarette male così, ma ti costano un bel di nambi. Se ti fai un conto, adesso sono anche aumentate, tra l'altro. Invece un'amica mia è stata costante, quando hanno aumentato la prima volta di questa serie qua, ha detto basta, io allo Stato non voglio più regare i soldi per ammazzarmi. Ha pigliato, non ha fumato più una, ne fumava 2-3 pacchetti e non ha fumato più una. Adesso è anni, l'ho ritrovato dopo tanto tempo, sempre ripeso, io no, manco per sogno. È una questione di principio già, uno che le faceva male e due che stavo regalando soldi allo Stato a tutto andare, adesso basta, e non ho regalato trucchi. E infatti su quello non ha torto, io lo stesso già, quando la mattina appena vado al lavoro, la prima cosa che faccio, caffè e sigarette. Pur quando ti mancano, caso sei sempre in astinenza, magari che sei un tossico. Invece quando ci provi, guarda, secondo me è tutto la prima e la seconda settimana, poi piano piano inizia a mollare, perché è così. Io quando ho smesso già, addirittura quando fumava fumavano vicino a me, mi dava anche fastidio all'odore. Infatti ho colto. Adesso ci voglio provare, non ti do la garanzia che ci riesco, però almeno provarci. Interessante avere cosa di provarci, dai. La volontà. E poi anche quella di continuare, se c'è. Interessante avere volontà. Io ti ripeto, avevo smesso 8 mesi, quando Natalia ha avuto l'infarto, ho smesso 8 mesi. E ho smesso, diciamo, uno per lui, perché se vedeva a me fumare, fumava anche lui. Quindi ho smesso io, ha smesso lui. Abbiamo deciso, gli ho fatto la proposta di smettere insieme, proprio perché sapevo che faceva male. E poi un giorno, modulando, ha detto, mi sto fumando una sigaretta. Ma tu, cacchio, la mi viene di giro. Natali, ma fumando stai? E qualcuno, così, che ha detto, fottito, già, io vado a dare una mano un attimino a mia moglie qua a sparecchiare, a fare il tutto, non è finito adesso di prendere. Mi ha raccata la bomba, ha dato un casino. L'ho rubata a mia zia, adesso la stacco e gliela rimetto. Niente, là, tanto poi fra mezz'ora salgo a Sacere e riprendo dalla BM se ci sei. E vabbè, cava cava, non c'è problema, signore. Ora ci sentiamo, più dopo, dai, per il momento occorre per me. Ciao.